La prostata, per curarla bisogna trombare! Guarda, Cruciani ha una prostata meravigliosa che viene esibita ai congressi medici per dire come si deve tenere la prostata. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Bello, bello impossibile, con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale. Bello, bello invincibile, con gli occhi neri e la tua bocca da baciare. Girano le stelle nella notte, io ti penso forte. Mentre il mondo crolla, l'Italia cerca di uscire e non ci riesce dalla crisi economica, noi ci appassioniamo di una vicenda. Laura Ravetto, deputata del PDL, dice di preferire al bello e impossibile Andrea Scanzi, giornalista del Fatto Quotidiano, Fabrizio Cicchitto. Lo trovo anche affascinante come uomo, ma per niente. Ma per niente, poi non lo toccherebbe nemmeno con un dito. Ma neanche con il mignolo. Beh, ma neanche con l'unghia però, del mignolo. Tra Cicchitto e ma neanche Scanzi. Con l'unghia ma del però piede. Più bello tra Cicchitto e Scanzi, chi è ma più che bello? Cicchitto. Oggettivamente Cicchitto. No! Il fascino maschile è più bello Cicchitto di Scanzi. Il fascino maschile, come Parenzo lei sa, se no non si sarebbe potuto né sposare né fidanzare. Dai, viene dall'intensità cerebrale di un uomo. Cicchitto è decisamente più intenso cerebralmente di Scanzi. Lei che mi brucerà. Poi dice incredibilmente: due giorni, Letta mi metta due giorni al posto di Saccomanni e trovo subito 4 miliardi. Ravetto. Lei non la deve riferire, lo devo dire io, lei non la deve riferire. Subito, io troverei anche 4 miliardi facilissimamente. Appunto, sì, adesso lei trova meglio subito. Lei è più brava di Saccomanni. Svegliamo. Lei è più brava di Saccomanni. Ma io li trovo, non so se sono più lei brava. Li trova, lei li troverebbe trovo. Subito i soldi, sì, lei sì, personalmente sì, trova sì, subito. Sì, adesso sì, vede sì, che sì, mi spinge su un terreno serio sì, e dice subito delle stupidaggini. Mi faccia stare al posto di Saccomanni, due giorni le trovo 4 miliardi. Allora diglielo, glielo dica a Letta, a Letta. Enrico, fammi stare al posto di Saccomanni, due giorni ti trovo 4 miliardi. E allora datele tutto, no? Datele un ministero, affidatele tutto, così risolviamo i nostri problemi, almeno quelli di questi mesi. Ci sei, David? Vabbè, chiamiamolo, dai, che ancora non risponde, su. Sì, chi è? Oh, finalmente t'ho trovato, su. Pronto, no, ti ho detto che sto per fare la trasmissione in diretta dal Delle Vittorie. Ma lo finisce, no? Telefoni a 10 minuti dalla diretta tutte le volte. Ma basta. Non è 10 minuti, cioè sono le 6:30, 6:40, quello che è. Ho capito che sono le 6:30, ma alle 21:05 ho la diretta dal Delle Vittorie. Non si può stare sempre a fare chi co. Ma io potrei anche fottermi. Aspetta un secondo, aspetta. Prima mi devi dare il tuo parere definitivo su questa cosa. Ti faccio ascoltare. Ma quale parere definitivo? No, che no, sono alle 18:35, no. devo preparare e leggere il canovaccio. Aspetta un attimo, ti faccio ascoltare la grande scelta che ha davanti Laura Ravetto, se andare con Andrea Scanzi o con Fabrizio Cicchitto. No, lei no, sceglie. Voglio... Sì. Laura Ravetto, no, deputato del nulla, PDL. Nulla, non mi interessa niente. Sì, no, mi devi dire semplicemente tu, se messo di fronte a una scelta secca su un'isola deserta, isola deserta. Puoi scegliere solo due uomini, niente donne, isola deserta per tutta la vita. Da una parte Andrea Scanzi, giornalista del Fatto Quotidiano, conduttore televisivo, eccetera, eccetera, e dall'altra Fabrizio Cicchitto, deputato del PDL, eccetera, eccetera. Ma da fare Scanzi tutta la vita? Aspetta, prima ascolta. Non lo toccherebbe nemmeno con un dito. Ma neanche con il mignolo. Ma neanche con l'unghia però, del mignolo. Però tra Cicchitto e ma Scanzi. Ma neanche con l'unghia ma del però piede. Più bello tra Cicchitto e Scanzi, chi è ma più che bello? Oggettivamente Cicchitto. No! Allora, tu che scegli? Ma Scanzi tutta la vita. Ora ciao, arrivederci, alla prossima. Grillo parlante. Poi dice che uno non si deve incazzare, eh. Va bene, faremo i conti più tardi. Intanto dal movimento di Grillo un'altra uscita. Inizia forse una valanga, eh. Una senatrice, credo, un'altra senatrice, De Pin. Io mi confondo sempre senatori, deputati, non so cosa sia. De Pin, che parla di inquisizione. Non accetto queste posizioni dure, non portano da nessuna parte, non siamo un popolo che vuole lo scontro, i cittadini non lo vogliono, non gli interessa questi scontri, non fa parte della nostra cultura portare un processo così, un'inquisizione, a che pro? Senatrice De Pin, i cittadini non vogliono lo scontro, a che pro? Non vogliono l'inquisizione. Io le vorrei fare riascoltare il Beppe Grillo della campagna elettorale, quando parlava di processi ai politici, quando parlava di tribunali del popolo contro i politici che hanno rubato, i toni che l'hanno portata lì al Senato. Allergico a tutte le prediche. Sentiamolo Grillo, ieri, ho paura del Parlamento, c'è gente ignobile. Questi sono i toni, da sempre sono gli stessi toni che l'hanno portata in Parlamento, gli stessi identici. Allora lei deve avere il coraggio di andare fino in fondo insieme alla sua collega, come diavolo si chiama, Gambaro, e via dal Parlamento, dimissioni, perché lei è contro quello che era Grillo prima e contro quello che è Grillo adesso. Siamo al limite della sopportazione anche noi, perché in Parlamento ci prendono per il culo, ci guardano col dito così. Ma io sono andato una volta, mi sono trovato, ho avuto paura di vedere il Parlamento, una roba immensa con della gente dentro, ignobile, entri in questo apparato. Poi nel Parlamento inglese c'è una tavola, sono seduti lì che si parlano, il nostro è così, è pieno di inquisiti, indagati, gente vigliacca che si nasconde dietro una sigla, che si nascondono protetti dalla polizia, dai carabinieri, dalla scorta, perché nessuno esce per le strade. Questa gente deve andare via. Non c'è più niente, il nano prende l'elicottero e fa una brutta fine. Non c'è più niente, non c'è più neanche il PDL, se il nano se ne va, il nano ormai o prende l'elicottero o farà una brutta fine, non c'è neanche più il PD è sceso in 10, 15 correnti, non c'è più niente. E sui dissidenti dice: vedono i soldi e non ce la fanno. Dalla rete è stata mandata via una persona, due se ne sono andate spontaneamente, su tre, ma è una cosa più che normale in un movimento con milioni di persone, con 163 parlamentari, era già in preventivo, l'animo umano, c'è quello che vede i soldi e non ce la fa e dice io non posso, lo capisco, quello che vuole dire che non è più d'accordo su una cosa, è normale. Servi di Roma fuori? Senza dubbi né ripensamenti, Padania bella e libera. Oh, Borghezio ne ha combinato un'altra delle sue, eh? Ne ha combinata un'altra delle sue. Ha dato della puttana alla idem. La galera non si augura mai a nessuno, ma un po' di gogna certamente. Non ce l'ho con la signora Chieng, ce l'ho invece contro questa ministra idem. Forse le vere puttane non sono quelle che esercitano la professione, sono quelle piene di ipocrisia, politicamente parlando, che dicono una cosa e ne fanno un'altra. Ma sentiamo. Io dico che in questa situazione, con gli esempi che ci vengono, per esempio l'ipocrisia di questa ministra idem, io non ce l'ho con la signora Chieng, come non l'ho mai avuta, a dire la verità, ce l'ho veramente invece contro questa ministra. Forse le vere puttane non sono quelle che esercitano la professione, sono quelle piene di ipocrisia, intendo dire politicamente parlando, certo, che dicono una cosa e ne fanno un'altra. Senza dubbi né ripensamenti. Vabbè, comunque ha specificato, è una puttana politica, diciamo, che fa una cosa, che dice una cosa e poi ne fa un'altra. Comunque, basta pronunciare la parola puttana e succede quello che succede. Comunque, sentiamo ancora. E forse le vere puttane sono certi personaggi, donne ma anche uomini, che sviliscono, che prostituiscono la funzione di servizio che chi ha uno stipendio pubblico dovrebbe sentire il dovere di avere nei confronti dell'azienda che li paga, dell'istituzione che li paga e gli dà anche degli onori. tempesta come una madre il figlio. Siamo qui, la Zanzara, Filippo da Ravenna, buonasera. Caccio, adesso riprendiamo Parenzo, Filippo da Ravenna. Dica. Sì, buonasera Crociani, salve. Dunque, le volevo raccontare un fatto, una cosetta che mi è successa una settimana fa, giovedì scorso. Giovedì scorso sono di Ravenna, sono concittadino della ministra Idem, giusto, sì, per rimanere in tema. Sì. Giovedì scorso io mi trovavo, sono stato invitato al Lido di Savio perché c'era un collegamento in diretta con Quinta Colonna. Sì. Si doveva parlare del turismo, della crisi del turismo, della grossa crisi della Riviera Adriatica, di tutto il turismo nazionale. Io mi sono recato sul posto e la cosa che mi ha colpito dopo il primo collegamento con lo studio è stato quando c'è stato la sospensione per la pubblicità, che qualcuno degli autori della trasmissione, diciamo del gruppo che era lì da noi a Lido di Savio, ha chiesto se qualcuno voleva dire qualcosa contro Grillo. Cioè, non ho capito, mi spieghi meglio. Allora, qualcuno degli autori di Quinta Colonna durante la pubblicità le hanno chiesto. Hanno chiesto a me, hanno chiesto al gruppo che era presente, c'erano dei bagnini, dei gestori di campeggi, degli, sì, albergatori, del pubblico che passeggiava, sì, in spiaggia sulle 7:30-8 di sera. Hanno detto, dice, adesso noi entriamo in collegamento, qualcuno vuole dire qualcosa contro Grillo. A me, sì, quel contro, premetto, io non sono un lettore di Grillo, così. No, ma ho capito perfettamente. Cioè, chiedevano se c'era qualcuno disposto a parlare contro Grillo. Contro Grillo, sembra una cosa assolutamente. Ma perché fino a quel momento nessuno aveva parlato male di Grillo? No, ma si voleva parlare di turismo, cioè siamo stati lì chiamati. Ah, si parlava di tutt'altro. A parlare di turismo, che cacchio c'entra Grillo per carità, c'entrerà col turismo se si parla di turismo, delle proposte che potrà far Grillo. Però io sono rimasto. Ma lei che impressione ha avuto? L'impressione che ha avuto è che proprio cercassero qualcuno. Del pubblico, quindi della gente normale, che dicesse qualcosa contro Grillo, non, anche perché in studio poi avevo visto che erano in collegamento con due, un parlamentare e una senatrice grillina, e di turismo alla fine non si è parlato. Io al secondo collegamento mi sono alzato, sono andato via, non c'è problema, però mi chiedo io a che cosa porta questo tipo di... Vabbè, forse volevano, siccome c'era una senatrice, non so chi era collegato lì. Ma era una di quelle senatrici che penso sia una di quelle che sono fuoriuscite adesso, o una di quelle che le difendeva, adesso non ricordo, giovedì scorso, quindi basterebbe andare a riprendersi il montaggio, diciamo. Ho capito, comunque le hanno chiesto di intermedia contro Grillo. Grazie Filippo, traffico, a tra poco. Ma Parenzo lo pagate voi per stare in trasmissione? La Zanzara. Pronto? Sì. Sì, buonasera, sono Cruciani, Radio 24, disturbo? Perché stavo riposando. Due minuti, volevo capire come, perché ha scritto quella cosa lì, extracomunitari, ladri, stronzi. In un momento di rabbia, ma l'avevo cancellato dopo 10 minuti, qualcuno ha fatto una foto e l'ha mandato, ma veramente ho già chiesto scusa. Ho mandato a tutti i giornali le mie scuse, niente, non ho altro da dire. Certo che era forte, dio, extracomunitari, ladri, stronzi, dovete morire subito. Lo so. Ma come mai? Un momento di rabbia mi è venuto questo. Che dici, Parenzo, scusa? No, volevo capire la sera, che cosa le hanno fatto esattamente? Mi hanno rubato in casa. Ma a lei o a sua sorella? A mia sorella. A sua sorella, vabbè, può capitare a tanti italiani, cioè può capitare a tutti, è un momento di rabbia, non ero in me. E comunque ho già spiegato tutto, va bene? Sì, no, un attimo solo, sì, ha spiegato, ma vogliamo capire qualche altra cosa. Lei immagini una cosa del genere? Lei che ruolo ha nel Partito Democratico? Scusi se glielo chiedo. Sono consigliera in circoscrizione. Sì, però immagini se una cosa del genere l'avesse scritta uno del PDL, del centrodestra, sarebbe stato massacrato. Per esempio, mi hanno massacrato, allora? Beh, no, il partito, il partito non ha fatto nulla, o no? No, il partito mi ha dato addosso. Sì, però non è che la Lega, quando di fronte a queste cose, ultimamente cacciano anche delle persone. A me mi hanno cacciato, infatti. Quando l'hanno cacciata? Mi hanno cacciato dal partito. Ma quando, oggi? No, cioè ieri la segretaria ha preso subito la linea, giustamente. No, però non è che l'hanno cacciata. Mi assumo le responsabilità, che devo fare, sì, ragazzi? Oh. Purtroppo il rare è umano. Lo so, ma... È un momento di rabbia. Cioè lei è stata cacciata, scusi se non ho seguito bene la vicenda, lei è stata cacciata dal Partito Democratico? Sì, è avviata la procedura. Ecco, è stata avviata la procedura di espulsione. Magari, ma lei vuole rimanere nel Partito Democratico oppure, oppure guarda, ormai? Ma ora non saprei proprio. Sinceramente, in un partito in cui non c'è solidarietà per un compagno che sbaglia in un momento brutto per la famiglia e comunque di pericolo, insomma. No, tra l'altro lei ha posto anche una questione che è quella di come il partito il Partito Democratico se ne frega della sicurezza, della questione della sicurezza, si può dire? Ma Prato se gli sembra una situazione vivibile in questa città. Cioè, se uno deve mettere tutte le telecamere in casa, deve barricarsi in casa e tutti i giorni, a tutte le ore, si sente dire qualsiasi cosa. Cioè comunque si può dire che il Partito Democratico se ne frega delle questioni della sicurezza? Io non lo so cosa, non lo so neanche cosa dice il Partito Democratico, sinceramente. Magari chiedeteglielo qualcuno cosa dice il Partito Democratico. Chiuso con la politica? Io ho subito questa cosa purtroppo e sono rimasta, sono veramente stata strumentalizzata. Strumentalizzata, cioè, ha scritto quello che ha scritto, ha anche scritto datemi di razzista ma non me ne frega un cazzo, la gente ha solo discorsi, che vuol dire? Che vuol dire? C'ho scritto, basta, che c'è da dire, ho chiesto scusa, basta. Cioè fanno spesso sulla sicurezza fanno solo discorsi? Come, scusi? Cioè sulla sicurezza fanno solo chiacchiere, questo voleva dire. Ma scusi, secondo lei? E che ne so. Ma lei c'è ammazzata a Prato? Sì, so che c'è un problema che riguarda gli extracomunitari, una volta c'erano i cinesi, adesso gli extracomunitari, non lo so. Qual è il problema? Cioè c'è un problema di sicurezza proprio quotidiana? Senta, io ho già dato tutto ai giornali e ho già risposto a lei. Io sono un attimo indaffarata, ho da fare altro, insomma. Ma la Lega? Perché non si iscrive alla Lega? Alla Lega. Ma, vero. Ma perché no, guardi, perché no? Non mi interessa. Beh, sulla sicurezza la pensano come lei, secondo me. Va bene, la ringrazio, mi scusi, dovevo riattaccare. Arrivederci. Grazie, arrivederci. A lei. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte. Caterina Marini del Partito Democratico ha scritto delle cose tremende sulle persone che hanno rubato dentro casa sua. Marco dalla provincia di Lecce, 800240024. Marco, dica. Dottor Parenzo, buonasera. Grazie di darmi ancora una volta la possibilità di parlare, spero che non mi interromperà come ha fatto sempre altre volte. Sono cruciani innanzitutto, genio. Chiedo scusa, ha ragione. Allora? È fatto bene. Chiamo per portare la mia testimonianza e la mia idea riguardo alla vostra trasmissione. Innanzitutto applicate continuamente una censura nei confronti sia di meridionali che di questioni meridionali, di tante questioni meridionali. Senta, a me più persone, per quello che mi riguarda, più persone chiamano dal sud meglio è, capito? Per cui non dica stupidaggini. Perché scusi questa forma di razzismo nei confronti del sud? Ma quale razzismo? Io ho detto più persone chiamano meglio è, ma ha capito bene o no? Sì, la sento. Però, allora? però quando chiama qualcuno del sud, sia che faccia una questione politica normale, sia che chiami invece per difendere le questioni meridionali, sia lei che il signor Parenzo sempre... Ma non c'è da difendere nulla, non c'è da difendere nessuna. Ma non c'è da difendere nulla, siamo 20 milioni di cittadini, 20 milioni, no 4 coglioni, che veniamo sempre maltrattati, siamo ideologicamente... Ma da chi? Non fate le vittime. Chi fa la vittima? È la Lega, è il Nord. Che vabbè, andiamo avanti, Marco, che vuole? Ecco, io chiamo a portare la mia testimonianza. Ma su che? Quale testimonianza? Per dire a tutti i meridionali e di tutte le forme meridionaliste di unirsi, di andare avanti e di lottare contro un Stato italiano che ci opprime, contro uno Stato italiano. Ma lei è malato di mente. Lei è malato di mente. Orazio da... Se lei dà spazio a un Borghetto, a un Calderoni, a persone folli, perché sono razzisti e folli, non capisco perché loro hanno la legittimità di parlare e andare in trasmissione. Ma lei può parlare quello che lei può parlare, infatti sta parlando, io ho tutto il diritto di dire che lei sta dicendo delle follie assolute. Orazio da Messina, buonasera. Sì, grazie, volevo dire un'altra cosa, però mi ricollego un attimo a quello. No, dica un'altra cosa, non voglio parlare del sud di questa roba. Perché la penso come lui. Io dico che chi ha votato, che i deputati grillini si attengono alla linea per la quale sono stati votati, o si debbono dimettere dal Parlamento. Perché? Perché chi ha votato il Movimento 5 Stelle, io fra questi, lo ha votato non per il loro programma,

Ecco, ma anche lei è a favore della secessione, no? Per niente non vado a letto assieme, eh. Come scusi, dice? Come dice, scusi? No, per niente non vado a letto assieme. Non vado a letto assieme in che senso? Se mi ha chiesto se anch'io sono favorevole alla secessione, giustamente ti vado a letto e vuol dire che sono favorevole. Ah, dice, cioè io faccio l'amore con mio marito e sono favorevole alla secessione. Non so se lei ha la moglie, se è favorevole come lei. Sì, no, ma ha una sua logica anche questo, effettivamente, che uno fa l'amore solo se è a favore. Questa è la dichiarazione della moglie e dell'onorevole Boso. Sì, per amore si fa questo e altro. Lei se ha una moglie o un'amorosa sarà uguale. Ma è bravo l'onorevole Boso anche, diciamo, negli affari di letto, è bravo l'onorevole. Vabbè, altro che, forse meglio di tanti altri. Meglio di tanti, ho capito, signora. Senta, ma è lì in zona il signor Boso, magari? Cosa? No, se è in zona, dica all'onorevole Erminio che gli è caduta la linea prima, credo erroneamente, mentre parlava al telefono con me. Volevamo chiedergli due cose, insomma. No, qui non c'è adesso questo momento. Sarà andato a fare la secessione, evidentemente. No, sarà andato dove cazzo che volea, sinceramente. No, scusi, ma questo qua è proprio robe che non deve dire a lui. No, per carità. Vado, arrivederci. Magari è andato a caccia di qualche immigrato, no? Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Forte scossa di magnitudo 5.2 Richter avvertita nel centro-nord, epicentro in Toscana tra Massa e Lucca, torna la paura in Emilia-Romagna, solo qualche danno. Grecia sull'orlo di una crisi di governo, fondo monetario, non daremo i soldi se l'Europa non copre il buco, Bruxelles i soldi ci sono, borse in calo. Camusso, occorre fare scelte precise, no all'aumento dell'IVA, domani prima manifestazione unitaria con CISL e UIL a Roma dopo 10 anni. La Camera approva la fiducia al governo sul decreto emergenze, Letta, Berlusconi deluso per la sentenza della Consulta ma corretto, pranzo con Alfano. L'Indesit conferma il piano di 1400 esuberi, i sindacati rompono il tavolo della trattativa, sciopero immediato negli stabilimenti di Fabriano. 5 Stelle ancora polemiche e tensioni dopo il caso Gambaro, si dimette la senatrice De Pin e Grillo dal blog attacca il governo del PD. In Brasile dilaga la protesta sociale contro Carovita e spese pazze per il calcio, scontri ed incidenti in 100 città, allarme per la Confederations Cup. Well now, little mosquito, there must be. Oh, intanto Grillo fa un po' di autocritica e dice che sullo streaming sono stati fatti degli errori perché abbiamo fatto passare Letta per uno statista e poi troppe liste con persone non compatibili, vabbè. Paolo, provincia di Venezia, buonasera. Buonasera. Dica. Io volevo insultare il dottor Crociani. Sì, sono qui, ecco. Paolo. Per dar del lecchino. Sì, benissimo. Servitore del padrone quale? Bisogna vedere quale. Sono tanti padroni. Lei ne ha di appunto più, dico, sono tanti, facciamo una bella lista, no? Lei ne ha di più e di più ancora. Scusi, professore, però, facciamo una lista. La cosa che a me dà fastidio, sì, sinceramente, sì, è quella quando dà dell'ebreo a Parenzo. Sì. A me quella cosa disturba più di tutto. Ma guardi che io lo faccio, ma guardi che io lo prendo in giro, ma a parte che non lo faccio mai. No, lo dice in una maniera pregiativa. Ma per carità, ma sì, figurati. No, sì. Ma lei ha bevuto un po', mi sa, la 19-27. Sì, lei ha bevuto moltissimo. Quello che ha pagato lei ho bevuto. No, lei ha bevuto moltissimo. Lei mi sa che la sera beve tantissimo, caro Paolo. Sì, secondo me beve molto. Sì, difatti. Sì. Quello che paga lei. Ma che vuol dire quello che pago io? Certo. Bevo quello che paga lei. Ma se vuole glielo offro da bere, oltre a quello che ha già bevuto. Sì, oltre. Se vuole le offro da bere, oltre a quello che ha già bevuto. Che si è fatto già? Due bicchierini se li ha fatti? Sì. Come no? Quanto si è fatto 3 già? 3,5 litri, 4. Ma due bicchierini, però, secondo me si è fatti. Però un lecchino, sì, non vi è ombra di dubbio. Almeno per me, Sì. Non ho detto che è valido per tutti. Io sì, a me piace molto. Leccare a me piace moltissimo. Sì, leccare il culo di suo amico Silvio. Sì, sì, quello può succedere, diciamo, può succedere, però, caro Paolo. la cosa che mi infastidisce di più è la cosa dell'ebreo Parenzo. Sì. A Parenzo. Certo. Io quella è proprio una cosa che non sopporto, che non la manda giù. Cerchi di mandare giù qualche altro bicchierino, così si assopisce, si fa una bella dormita e domani si sveglia tranquillo, senza problemi. Dario da Torino, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. La ringrazio per le perle che lei quotidianamente mette in onda sui nostri politici. Sì. Mi fanno ancora di più rammaricare per l'enorme possibilità che Grillo e con il serbatoio di voti che ha ottenuto ha gettato nel cestino. Cioè, che doveva fare? Allearsi col PD, dettare le sue dettare legge col PD, cercare di indirizzare il PD verso un governo come voleva lui? Che doveva fare sto Grillo? Mi spiego meglio. Secondo me il serbatoio di voti di Grillo non era dovuto solo all'elettorato di 5 Stelle, ma era anche di tante persone che magari lei cosa rimprovera a Grillo? Me lo vuole spiegare concretamente? Cosa rimprovera a Grillo? Rimprovero la non politica fatta dalle persone che sono state elette. E dunque cosa doveva fare? Cosa dovevano fare? Allearsi con il PD? Che cosa dovevano assolutamente fare? Assolutamente no. Se uno non si allea, se uno non va al governo, non si riesce a fare un cazzo in Parlamento. Ma lei l'ha capito o no, Dario? Che per incidere bisogna andare al governo, dunque bisogna sporcarsi le mani. Non si può dire no. Però hanno deciso sin dall'inizio che non si devono. Mi permetta, ma l'opposizione non si fa con la politica degli scontrini, del voto. Ma quello è un altro discorso, non c'è dubbio. Le espulsioni, gli scontrini sono errori clamorosi. Abbiamo la borsa, torniamo subito. Siete la spazzatura radiofonica italiana. Siete proprio una cosa abominevole, siete una merda proprio. La Zanzara. Le meravigliose imprese dell'onorevole Razzi sul treno Pescara-Roma. Sentite il senatore Razzi. Il corridoio ferroviario adriatico ammodernamento della linea Pescara-Roma. Premesso che la velocizzazione del corridoio ferroviario adriatico costituisce opera strategica ed impegnativa per il governo italiano, che in questo momento codesto deve essere assicurato un'adeguata modernizzazione della linea ferroviaria Pescara-Roma. In omaggio l'astronauta Gagarin. Non è infatti neanche pensabile che i due corridoi ferroviari Tirreno e Adriatico siano ammodernati, velocizzati, mentre il possibile ammodernamento degli stessi corridoi abbia tempi di percorrenza oltre 5 ore, assolutamente inadeguate e penalizzate per i viaggiatori. L'ammodernamento della ferrovia Pescara-Roma costituisce altresì opera strategica per il turismo e lo sviluppo economico dell'intero Abruzzo, nonché opera oramai ineludibile per la drastica riduzione del fenomeno di codesta nel traffico veicolare a Roma. No, non ho capito l'ultima cosa. Com'è il traffico? Il traffico? Risentiamo l'ultima cosa? Rimettiamola, l'ultima cosa. L'ammodernamento della ferrovia Pescara-Roma costituisce altresì opera strategica per il turismo e lo sviluppo economico dell'intero Abruzzo, nonché opera oramai ineludibile per la drastica riduzione del fenomeno di codesta nel traffico veicolare a Roma. Gerani, mettiamo gerani sui Balcani. Siamo qui 800240024 con l'onorevole Razzi, che al Senato si esibisce su quello che bisogna fare per la linea Pescara-Roma, e non scordiamoci che è disposto a fare tutto per Berlusconi, anche morire. Io sono con Berlusconi e non c'è trippa per gatti. È il mio messia. Cosa è disposto a fare per Berlusconi? Anche morire per lui. Ma sì. Ma mi darebbe un rene? Ma gliene do pure due. Ci mancherebbe altro. Ma subito. E se lei muore poi? Che se frega. Ma è normale. In omaggio l'astronauta Gagarin. Le atomiche non ci credo, ma mi hanno detto. Sentite. io credo che c'è un'apertura, non è così che magari... Però si parla di armi atomiche, si parla. No, assolutamente, assolutamente no. In una riunione mi diceva un grande esponente del partito, dice, senatore Razzi, dice, non è che noi ci passano sotto il naso, magari ci buttano delle bombe e noi gli rispondiamo con le frecce. Dice, mi sembra una cosa assurda, ma io credo che non è così e loro vogliono la pace. La Corea del Nord vuole la pace. Le grandi, incredibili imprese del senatore Razzi. Dalla Zanzara a Rete 8 al Senato. 800 24 00 24, grande ritorno Luca Telese. Ciao Luca. Buonasera. Dove diavolo sei? Sto tornando a casa. Bene, bene, ma secondo te si deve dimettere il ministro Idem? Può abbassare la radio? Ecco, abbassa la radio, sì. Via Emanuele Filiberto 16. Ma chi è il taxi? Chi è il taxi? È un tassista che non sente la Zanzara, ma ti rendi conto? No, ma chiedigli perché, chiedigli perché. E vuole sapere Cruciani perché lei non sente la Zanzara. Ma come, lo sento sempre, però ora non era sintonizzato. No, ma l'ha accesa adesso. Ah, l'ha accesa adesso, meno male. No, no, dice che è un tuo fedele. Bene, bene, bene, quindi bisogna sempre accettare. Se non fosse fedele... Come si chiama questo taxi? Se non è fedele, scendi subito. No, la sigla com'è? Ah, non ha la radio, quindi è anche un taxi... Indipendente, radio. Capito? Di quelli indipendenti. Siamo indipendente, non possiamo controllare. No, ma soprattutto siamo felici noi se è indipendente. No, però, Parenzo, felice, digli... dice Cruciani, se è indipendente. Sì, Parenzo. Scusa, Luca, gli puoi dire una cosa del genere? Parenzo! Lo so, Parenzo! Lo so, che devo fare? È quello di un tempo, perdi colpi. No, perdo moltissimi colpi. Scusa un attimo, Luca, ti abbraccio fortissimo intanto. E poi di a quel tassista... No, di a quel tassista... Che ma sta su RTL! RTL RTL 102.5. Ma sei pazzo, vai subito a mettere su Radio 24 immediatamente. Radio 24, vediamo se sta la frequenza, perché così possiamo... No, vediamo se è memorizzata, vediamo un po'. Non è memorizzata, Giuseppe dice che lui le cerca sempre così col tuner. Vabbè, ma allora fagli qualche domanda sulla Zanzara, vediamo se è vero o no. La sente sempre la Zanzara? Chi c'è insieme a Cruciani? A Cruciani e il Parenzo. E qual è l'ultima cosa che si ricorda della Zanzara? No, Bittarelli, hanno fatto due risate. Si è fatto due risate con Bittarelli, dice. Vabbè, avete questo Bittarelli anni fa, risate? Anni fa. Anni fa, secoli fa. No, no, no, no, non è credibile. Ma che cosa è Cruciani? È una cosa che si ricorda di Cruciani, è recente. No, della Zanzara, no. Ma non si ricorda, vabbè, ma i tassisti sono fatti così, ascoltano e si scordano tutto immediatamente. Vabbè, dimmi la verità, Luca, chiedigli qualcosa sul ministro della IDEM, se secondo lui si deve dimettere, perché non che ha parlato. Che pensa della IDEM? Si deve dimettere o no? Contato il nome, proprio com'è? Massimo. Assista indipendente, si dimettesse, dice. Si dimettesse, ma così per principio oppure perché non ha pagato l'ICI per la casa? Ma sa tutto del fatto l'ICI non pagata. Vabbè, ma mo ha preso Parenzo, non è che è un attenuante, poi è anche infedele in questi giorni, quindi... si vuole fare scudo con Parenzo. Vabbè, Luca, ma secondo te si deve dimettere o no il ministro? Sai perché si deve dimettere, secondo me? Perché? Non per quello che ha fatto, perché noi non siamo Torquemada, cioè quello che ha fatto è una piccola elusione fiscale che non doveva fare, sì. Soprattutto non è una persona che, sai, prima di essere eletta viveva di elemosina, era un atleta, era già un personaggio pubblico, aveva già un ottimo reddito, è sposata con un preparatore. Sì, sì. Allora? Quindi, però quella cosa lì, diciamo la verità, con quello che abbiamo visto, io sarò che mi è simpatica, non mi sembrava un crimine. Ma dai, l'avresti massacrata, se fosse stato un altro l'avresti massacrata, no, pure no, tu, no, dai. No, ti sto dicendo peggio, cioè mi sembra una cosa su cui ho puntato l'attenzione, ma così a pelle non è. Ma l'hai vista l'intervista di oggi di Repubblica? Ecco, ma dai, su l'intervista è l'intervista concisa che secondo me è imperdonabile, perché siccome il principio anglosassone è che un politico non può mentire, lì c'è non sapevo dell'ICI non pagata, cioè io non mi occupo di queste cose, non sapevo di queste cose. Non già. Mi occupo di queste cose, come fai a non sapere che a casa tua c'è una palestra? Passavo tre settimane al mese in canoa e delegavo a tecnici quella, le mie faccende. No, quella, sì, è una scaiolata questa, dai, è una scaiolata, dai. Tre settimane in canoa vorrebbe dire che qualunque tassista non può non pagare l'IMU perché passa il 70. Ecco, Mario, si è risvegliato Marco. No, non dica così, non dica così. Però Luca, scusa un attimo, ma l'altra cosa incredibile di questa intervista. Scusa, ma anche tu potresti pagare parte dell'IMU a Radio 24, passi 3 sere al giorno lì, ma non a casa tua, per esempio. Sì, ma ha inventato l'IMU ad personam. Un'altra cosa, scusa, ma in tutte le interviste è inaccettabile l'IMU ad personam. Un'altra cosa, Luca, un'altra cosa. Allora, nell'intervista dice, entrando, perché tutti quanti dicono che entrando al governo ci rimettono? Guarda che è una cosa incredibile. No, quello, i rimettisti. Cioè, ogni volta faccio politica, però ci rimetto, tutto così. Questo l'abbiamo già detto altre volte, no? Perché uno dice, ho dovuto rinunciare allo sponsor. Ma perché hai rinunciato allo sponsor? No, vabbè, ma non lo dire, no? Invece la verità è che, no, lei lo dice, no? Per fare il ministro rinunciato al posto, sì. Ma allora non fare il ministro, cioè, oppure dimettiti da ministro, difendi il tuo onore così che comunque resti deputato. Certo, certo. Puoi stare, però l'altro problema veramente enorme è che quando lei ha parlato si è messa in un guaio, cioè il governo che chiede l'IMU e che forse alza l'IVA e che chiede tanti sacrifici non può poi dopo avere al suo interno uno che dice sì, ma io in fondo un po' ci ho rimesso e comunque non sapevo che il mio commercialista non aveva pagato. Assolutamente, abbiamo con noi, aspetta un attimo, aspetta. Sono come Zanzara. Oh, l'onorevole Angelo Cera dell'UDC, protagonista di una meravigliosa scazzottata tra virgolette ovviamente l'altro giorno alla Camera. Buonasera. Buonasera a voi, ma niente scazzottate però, per carità, eh. Beh, quasi, c'eravamo quasi, però adesso, onorevole Cera. Se qualcuno tentava, così come è successo, di avvicinarsi al mio segretario, probabilmente sarebbe successo. Però cioè, non ho capito, tutto nasce dal fatto che qualcuno, qualche grillino, ha tentato di... Sì, si è avvicinato minacciosamente verso Cesa, il mio segretario nazionale. Cesa, il signor Cesa. Non so per quale motivo io mi sono... Ma minaccioso in che senso? Scusi, onorevole Cera. C'era Cesa poi. Si avvicinava con fare, diciamo, non certamente urbano, minacciando il mio segretario nazionale. Io gli ho detto solo, vai al posto tuo, e mi è scappato, se non te vai di qua ti da un cazzotto e ti ammazzo. Ma solo sta cosa, ma giusto per... Lei ha detto, ti do un pugno e ti ammazzo, questo l'ha detto? Sì, se l'ho detto, però l'ho detto giusto per farlo rientrare un po' nelle righe, perché era proprio, diciamo, un po' suonato. Ma chi era questo qua? Senta, un collega che se lo vedo te lo posso indicare, ma sì. Certamente non so, solo, come dire, sono grillini, guarda, non sono tutti tanti, uguali, sono tutti uguali secondo me. Tutti uguali. Mi dica la verità, sì, sono tutti uguali. E come li definisce lei, Cera? Guardi, quando si prende nella massa c'è il buono e il cattivo, purtroppo la sensazione che... Ma che sono? Tutti alieni? Che sono? No, alieni pochi, a dire la verità, se tu ti parli in termini di qualità, un po' parecchia zavorra e pochissima qualità, cioè, basta vedere un po' anche i toni degli interventi e soprattutto... Sono ignoranti, che so, ignoranti, che so... No, ignoranti certamente no, mi guardo a dirlo, però è chiaro che forse ignoranti di politica, tra virgolette. La vecchia scuola di C, come lei, la vecchia scuola di C. Guarda, io sono onorato di essere un DC, un democristiano. Quando stamattina uno di questi giovanotti si è permesso di concludere, che ha parlato... Sì. Sulla fiducia, sì, dicendo al PD che si comportava come la Democrazia Cristiana. Lei che ha detto? Magari fosse successo di stare ai tempi della Democrazia Cristiana. Era magari. Telese, lo conosci? Magari. Lo conosci l'onorevole Cera? Sì, è anche abbastanza solido, diciamo, fisicamente. Quindi, in questa ricostruzione a me era piaciuto molto questo tratto western dell'onorevole Cera, che dice ti spacco la faccia con un pugno. Adesso questa ricostruzione un po' che lo derubrica a bodyguard di Cesa un po' mi ha deluso. Cioè, mi era piaciuta molto di più l'immagine epica del parlamentare che non deve chiedere. Poi tra l'altro ha dato del coglione a chi è che ha dato del coglione lei, Cera? Guarda, io ho dato un mezzo e un intero. Esatto. Questo è buono, è ottimo come linguaggio. Non lo so, guardi, proprio perché sono tutti uguali, come dire, sono tutti coglioni, sono tutti coglioni. No, no, per carità, no, no, no. Eh beh, come proprio perché sono tutti uguali, no, dice... sono tutti uguali nel senso che io ancora non riesco a identificarli, a dargli nome e cognome, alla fine ci riusciremo probabilmente a fine legislatura, ma per carità mi guardo dal... Ma chi era il coglione poi? Di Battista, chi era? No, Di Battista sarebbe quello intero, almeno così l'ha segnalato sì. Emilia, quello là. Vabbè, ma lei l'ha detto o no che è un coglione intero, sì? Guardi, io mi sono visto... Una volta che ho tentato di difendere il mio segretario, ho aggredito da 8 persone. Addirittura 8 persone, che erano in gruppo, guardi. Ma che volevano fare? Volevano ammazzarla di botte? Che volevano fare? Ma no, tutti quanti in maniera così come sono abituati, ad applaudire tutti insieme, a a sbeffeggiare insieme, a ridacchiare insieme, probabilmente a uscire anche tutti insieme. Cioè se invece uno contro uno... Ma io le chiedo, è mai possibile che io riesco a rispondere a tante persone in una volta? Se non ricevo da più persone aggressioni, vuol dire che sono pazzo, vuol dire che ci sono state tante persone che hanno tentato di aggredirmi, purtroppo in meccanismo. Vabbè, c'era il coglione, era intero Di Battista, il mezzo coglione chi è? Sibilia? Guardi, io non ho detto questo. Ma come no? L'ha detto lei prima. Ma l'ha detto tra l'altro mettendolo pure a verbale. Il signor Sibilia, io non conosco chi vabbè, lei ha dato del mezzo coglione a uno e del coglione intero a un altro. Voglio dire, succede alla Camera. Ma per carità, li ha riferiti, io mi guardo bene dall'indicarli. Ma scusa, Telese non l'ha detto prima? Ha detto prima. L'ha detto un istante fa. L'ha detto l'onorevole Sibilia, io non l'ho detto. Ma come no? Ha detto prima, del mezzo coglione a uno e del coglione intero a un altro. Ma non l'ha detto, io ho detto, l'ha dato Sibilia, non io, perché io ho detto, alzandomi, ma chiaramente era una discussione molto molto accesa e molto privata, vabbè. Nel senso, tra virgolette. Ma che privata? In Parlamento non c'è nulla di privato, c'era, su. Guardi, a me va benissimo se lei ha dato del coglione, del mezzo coglione a un altro perché la volevano aggredire, perché si sentiva circondato, oppure perché si sentiva così, però abbia l'onestà di ammetterlo, per carità, per me va benissimo. Io l'ho detto. Io ho detto e non si penta. No, io ho detto che l'ho detto, però non ho indicato le persone, perché io non so chi sono, ma ho indicato. Ah, così, coglione e mezzo coglione, così lei ha detto. L'ha indicato, ma guardi, se lei vede il secondo stenografico, se ne accorgerà che l'ha detto così il collega Sibilia, che ne so. Io in questi termini, che l'ho detto, l'ho detto. E senti, ma vogliamo chiedere, Luca, vogliamo chiedere a... Parenzo, di nuovo mi hai pa, chiamato ho Parenzo, detto pa, ho detto pa. Scusami Luca, vogliamo chiedere a Cera, che è un esponente dell'UDC, quando è che rompono con Monti definitivamente? Hanno già rotto. Facciamo la prova della verità. C'era, io ho delle fonti riservatissime che lei conosce, importantissime, che mi dicono che è già tutto finito. È vero? Guarda che questo è un matrimonio che non è mai nato. Io sono un democristiano e l'ho fatto, mi sono iscritto alla scelta civica solo perché qualcuno mi ha detto di farlo, ma io mi ero iscritto. Casini. No, non certamente Casini pensava in quel momento a scelta civica. Mi sto riferendo a chi ha salvato l'UDC, l'onorevole Cesa. Cesa ha voluto lo scudo crociato alla Camera, queste storie, non altri. Se oggi non ci fosse stato Cesa che ci dava questa opportunità di salvare lo scudo crociato. Ma è un grande statista, è un grande statista, signor Cesa? Sicuramente è la persona per bene, poi che lo sia non l'ha potuto mai dimostrare perché al governo non c'è mai andato, però la persona, l'assicuro, per benissimo, un grande per benissimo. Scusi un attimo, Cera, però abbia pazienza, il problema è un altro, ma voi che ci avete a che fare con Montezemolo, per esempio? Niente. No, io non c'ho proprio. Io se vado dai miei concittadini sanmarchesi, tra l'altro, in Foggia, San Giovanni Rotondo di Foggia, e vi dico che sta con Montezemolo, quantomeno mi abbusco un ceffone. Ah, poi gli menano proprio. Mie, no, mi menano, perché se gli vado a dire, guarda, io sto lì, quando meno mi insaccano, mi danno un cazzotto in testa, per cui lì i problemi. Ma perché non lo possono vedere? Perché non lo possono vedere Montezemolo lì? Guardi, perché Montezemolo rappresenta una categoria di uomini importante sicuramente. Eh? Che rispetta i drammi della povera gente, quella più bassa bassa, quella che non riesce a mangiare. Cioè, se lei va tra i suoi elettori e dice io sono insieme in alleanza con Montezemolo, la prima cosa che possono fare gli emenano subito. Ma non certamente tutti, ma la gente buon pensante dice vabbè, buon non pensante, ti voto più, sì, perché hai perso la tua aureola, sì, di popolare democristiano, di gente che sta vicino alla povera gente per sì, certo, come dire, per prendere la bandiera della nobiltà. Hai capito? Però questa frase, Luca, spiega tutto. Cioè, se vado dai miei elettori e dico io sono alleato con Montezemolo, la prima cosa che fanno è mi danno un cazzotto, hai capito Luca? È così peggio funziona. Dei grillini, direi, di conto. Va bene, abbiamo peggio la pubblicità, torniamo subito con il mitico Angelo Cera, UDC, ancora UDC, fortissimamente UDC, dice lui, a tra poco. Drastica riduzione del fenomeno di codesta nel traffico veicolare a Roma. La Zanzara. Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco, mañana yo soy stanco, come una muchachita. Luca, guarda che sorpresa, Luca. Dimmi. Aspetta, guarda. Ma te l'ho detto 100 volte. Pronto? Grillo? Cruciani, ma sei sempre tu. Lo so, ma stavo ascoltando la zanzara, vero Grillo? Io c'ho altre cose da fare, dai, Cruciani. Scommetto che mi vuoi fare il solito cazzo di domande sugli espulsi. Beh, sì. Oppure beh, su Capitan Findus. No, chi è Capitan Findus, scusa? Dai Cruciani, c'ho altre cose, dai fammi le domande, sputiamo subito queste cose e via. Ma è fisiologico. Come fisiologico? È fisiologico, su 163 parlamentari, 4 se ne vanno, è uno scilipotismo dell'anima. Ma come uno scilipotismo? È uno scilipotismo dell'anima, una cosa che oramai ha preso il piede, ma se ne vanno per intascarsi la diaria. Ah, ma solo per adesso questo? Ci sono anche le campane, visto che... Ma come? No, nei campani non si insultano, Grillo. Vuoi fare una domanda? Sì, Parenzo, io sono ormai... No, Parenzo! La terza volta sei autorizzato a mandarmi a quel paese, eh? E c'è anche... No, e c'è, ma anche c'è anche Telese, ma siete messi sono proprio molto male. Sono deluso, Grillo. Questo microfono di legno è un modo per intimidire noi giornalisti. Ma non ci spaventiamo mica per le sue panzane. Telese, te l'ho già detto. Tu per Cairo puoi fare soltanto raccattapalle, non puoi fare nient'altro. Ma c'è che il dici, vuoto, Grillo? C'è il vuoto, sei dalle finito tue parti, sei un troll, ma lo sanno tutti, non dici un cazzo, non dici, stai, dai. Comunque sei quasi, sei finito quasi, sei quasi finito, ti stai sciogliendo come, no, come un gelato al sole, se ne vanno tutti, i sondaggi vanno male, Grillo, Sondaggi vanno male, ma tu stai scherzando, ma è chiaro, era prevedibile, avevamo avuto troppo successo in breve tempo, ho per capito. Questo forse in parte è stato meritato, ma... è tutto calcolato. Scusi Grillo, è tutto però... normale, Cruciani, dai. Scusi Grillo, però io aggiungo una cosa, al di là dei sondaggi, oggi lei ha fatto autocritica. Ha detto forse abbiamo sbagliato in qualcosa, abbiamo commesso degli errori, sullo streaming abbiamo fatto passare a Letta come uno statista. Ma tutti fanno errori, noi non siamo, cioè c'è la rete, ci sono i cittadini che devono riappropriarsi della democrazia del nostro paese. Ma uno può cacciare una persona con la rete, su, è una cosa patetica, ridicola, su. Patetica è la tua trasmissione, Cruciani. Vabbè. Il Movimento 5 Stelle è l'unico baluardo che tenga la democrazia nel paese, evitando che ciascuno si faccia giustizia da sé, anarchia, nell'anarchia totale. La rete è sovrana. Ma la rete sovrana, mi cancella. Ma che ci cancella? Noi siamo vivi e vegeti. Scusa, Luca, diglielo tu. I leader oggi mi hanno detto che sono come Ceausescu, ma io sono contro. Io sono contro il leaderismo. Il leaderismo deve scomparire. I leader devono essere le persone. I cittadini devono riappropriarsi delle istituzioni. Cosa dici, Telese? diventato un satrapo. Fai qualcosa di utile. Un pannello fotovoltaico, come stai viaggiando? Queste in macchina stai viaggiando? Te le scrive Casaleggio e sono pure riciclate. Vabbè, adesso ti lasciamo, perché ormai decidiamo noi i tempi dell'intervista. Noi non ce ne frega niente se uno viene alla radio o in televisione, eh. Noi non ce ne può fregare di meno. Hai detto che vuoi tornare in televisione, Grillo, o no? Bisogna parlarne, si può anche arrivare a un compromesso, possiamo anche arrivare alla televisione. Adesso mi hai chiamato e ho risposto, Cruciani. Vabbè, a presto. Non c'è niente di strano. Vabbè, siamo morti o no noi? Non ho capito se siamo morti o vivi. Voi siete degli ectoplasmi, dei troll, ma lo sapete, te, Telese, tutti gli altri. Siamo va tutti. Culo. Vabbè, ciao. Vado a stare svegli per amare. Vado a stare svegli. C'era? Esiste ancora Scelta Civica? Senti, sono problemi loro. Cioè a lei non gliene frega niente di Scelta Civica, diciamo la verità. No, nel senso che si devono rimpastare tutti insieme. Troppi generali e nessuna truppa. E soprattutto non un capo vero e proprio, perché Monti si è dimostrato inadeguato, o sbaglio? Guardi, Monti, se non ci fosse stato l'UDC che ha rischiato comunque giocandosi tutto su Monti, ci abbiamo rimesso anche la pelle. Ma chi ve l'ha fatto fare? Non so, chi ce l'ha fatto fare. Una forma di stoicismo, di suicidio collettivo. Suicidio, vi siete suicidati con Monti, diciamo la verità. Lo dica esplicitamente, c'era, lei è una persona molto sincera. Avete fatto una gran cazzata a allearvi con Monti. Se andavate da soli, sicuramente era meglio. Guardi, questo spero che qualche amico che ha di sopra di me lo capisca. E se ritorni sulla terra col saio dell'umiltà per riprendere tutti insieme il cammino. Ah, lei è molto cattolico, signor Cera, capito, Telese? Sì, no. Certamente sì, io vengo dal paese di Padre Pio. Torna pure all'UDC, lei è un fedele. Cera si candida alle europee. Sì. Ed è primo degli eletti nella circoscrizione sud, così farà botte anche a Strasburgo. Ma Cera o Cesa? Perché base una differenza tra una R e una S. Vedi che sono tutti uguali. Cera, Cesa. Guardi, ci ho provato, più o meno sono arrivato a 30.000 voti in 20 giorni, per cui un po' di... Scusi, io voglio dire una cosa però, caro Cera, lo dica esplicitamente, abbiamo fatto una stupidaggine, una cazzata andare con Monti, su, da soli... Guarda, io l'ho già detto in più occasioni, in due consigli nazionali... No, ma lo dica qua, che è un'altra platea. Lo dico che è stata una grande stupidata. Una cazzata, come si dice? Una cazzata incredibile. Come si dice in pugliese? Una forma di suicidio. Avete visto quanto un pastore porta le pecore in un dirupo e li ha buttati dentro? Così è successo a noi. E chi era il pastore in questo caso? Che era il pastore che ha creduto di poter seguire Monti, facendoci scomparire per tre mesi da tutte le televisioni d'Italia, da tutti i giornali del mondo. Ma era meglio restare con Berlusconi, che dice? Rimettersi con Berlusconi? Guardi, io non sono né un berlusconiano né tantomeno, io sono un democristiano e voglio stare lì dove sono. Abbiamo rischiato tante volte di scomparire, ma caspita, scomparì per Monti. Ma roba da matti, c'è avuto una fantasia incredibile a qualche amico mio, ma roba da matti a lui. Ma chi è st'amico? È un amico mio che spero che mi ascolti. Ma chi è? Ma non è che siamo qui a cosa? Qui. Io nell'UDC sono l'ultimo dei. Ma questo è Casini, su, è che lei ce l'ha con Casini, su, dai. Ce l'ha con Casini. Per carità, io li voglio molto bene, lui sa che li voglio bene. Sì, quando un cristiano dice così c'è da preoccuparsi, c'è da toccare. Com'è? No, ma guardi, non ho proprio paura di nulla. È un amico a cui voglio molto bene. Chi è che va fatto andare con Monti? Cera, chi è che va portato al suicidio? Al suicidio ci hanno portato alcune intelligenze. Ma chi? Mi dica chi? Chi è stato? Ma credo che siano state più persone, una persona non va da solo. Io credo che. Ma Monti come si è dimostrato? Mi dica qualcosa di Monti, come si è dimostrato sto Monti? Un ingrato. Sì. Una persona sicuramente che bada solo a se stesso, ai fatti suoi, nel senso politicamente. Sì, Scelta Civica. Ah, certo. che credo, come dire, perché non siamo, con il suo movimento non andrà da nessuna parte, in quanto si regge sul nulla. Sul nulla, e Montezemolo però umanamente è una bella persona, no? Umanamente no, oppure umanamente com'è? Potrebbe una pessimo. Bella persona, che no? Cosa? Umanamente Monti com'è? Pessimo. Umanamente è un umano, però che pensa di stare nell'iperuranio, per cui noi ce ne siamo accorti tardi. C'è un robot, una persona normale, una specie di robot. Per cui, come dire. Vabbè, senta, ma lei i soldi che guadagna come deputato, ma bastano oppure ci rimette a fare il deputato? Guardi, io non ci rimetto, perché essere deputato è un grande onore. E vabbè, quello lo sappiamo. Si danno la possibilità. Però ecco, come dire, noi che abbiamo fatto in una listina dove ci siamo, abbiamo dovuto? Cera? Che fine ha fatto? È colata la cera? Che è successo? No, volevo dirti questo, sì. Tenga presente, sì, che io sono stato insieme a altri due o tre amici, sì, candidati. Che avete fatto? Abbiamo dovuto sobbarcarci una campagna elettorale in Regione Puglia, perché tutti sapevano che in alcune liste, sì, pur avendo molti candidati, si è nella possibilità di essere eletti. Allora solo due o tre persone si caricano di un'intera campagna elettorale. Cioè lei vuole dire che ha messo dei soldi suoi per la campagna elettorale? No, per terreno soldi no, non ho mai messo soldi. C'è finanziamento pubblico? Per fare da un tipografo un santino, sì, e far arrivare un santino dalla tua bella facciona o dalla, sì, mia bella facciona a 2700 elettori in tutta la Puglia, non è che si scherza, o il tipografo si lascia andare a non farsi pagare. Però scusi un attimo, ma se ci sono le liste bloccate, lei che campagna elettorale ha fatto? Che santino, perché ha dovuto fare i santini? Le liste bloccate le fanno i grossi partiti, ma nei piccoli partiti come l'UDC, dove la pagnotta ce la siamo guadagnati in mezzo alla gente, il voto l'abbiamo trovato a uno, noi sappiamo noi che significa. Vabbè, ma sempre le liste bloccate c'era, o ha bisogno di farsi pubblicità lo stesso? No, guardi, io ero il numero due in Puglia, ma non so, è proprio perché era una lista bloccata, il peso va più o meno su quella persona, su quelle due o tre persone. Vabbè, ma insomma, quanti soldi ha speso per la campagna elettorale lei? Guardi, io ho speso una cosa irrisoria per una campagna elettorale. Vabbè, allora. Io sto intorno ai 30.000 euro. Ma questo per la regione o per la Camera? Non ho capito bene. Per la Camera. Più o meno, io non ricordo. Vabbè, ma io non ho capito bene. La domanda che gli abbiamo fatto, Teresa, era questa. Ma lei, questo stipendio che c'ha, è adeguato, è giusto? Oppure lei un po' ci rimette, arriva proprio pelo, lì? No, guardi, io vivo bene anche perché, non mi lamento dello stipendio che prendo. C'è tanta gente che prende molto. Vabbè, quello meno, lo sappiamo, sì. Bene, però voglio dirvi questo: quello che stiamo prendendo oggi, sì, potrebbe essere anche ridotto per qualche altra piccola somma. Vedremo. Guardi, senta una cosa, ma Monti, secondo lei, merita di essere senatore a vita o no? Ma poco, Guardi, il problema merito o no? Mi dia una risposta sincera. Guardi, il problema non me lo sono posto prima e non me lo pongo adesso. Non gliene frega niente. Me ne frega nulla e voglio dormire stanotte. Ah, in che senso vuole dormire stanotte? Scusi. Nel senso che non voglio vivere con gli incubi, nel senso che con gli incubi ho dato una risposta. Ma perché è vendicativo, Monti? Monti vendicativo no, assolutamente no. Però, che ne so, vuole dormire tranquillo, Teresa, mi ha fatto spaventare, penso, Luca. No, assolutamente no, io voglio dormire. Voglio sapere una cosa, ma il cane Monti, sì, ha detto che gli hanno buttato fra le braccia? Quello dalla Bignardi, sì. È vero oppure no? Ma non ho capito. Cioè il cane quello dalla, quando è andato dalla Bignardi, si ricorda? Monti, sì, adesso dice che il cane gliel'hanno buttato tra le braccia, che lui non lo voleva fare alla fine quella sceneggiata del cane. Ma cioè, insomma, è una persona sincera oppure un po' un bugiardo, Monti? Guardi, io rispetto molto, io ho un cane a casa, per cui i cani rispetto, lascio andare ad altri tipi di considerazioni. Ma no, lei è cattivissimo con Monti, è veramente molto cattivo con Monti. Comunque, vabbè, ci sta. Ma io non sono cattivo con Monti, io sono cattivo con chi, sì, in qualche maniera non ha visto realmente che cosa noi dell'UDC abbiamo dato al suo movimento e alla sua persona. Invece adesso lui se ne fotte, mi perdoni, io mi sento incazzato per questo motivo, come tanti altri democristiani. Ma perché? Che va fatto dopo? Scusi, che ha combinato dopo? Non ha combinato, guardi, quello che ha combinato, come dire, ci hanno detto gli elettori in campagna elettorale. Ma anche per colpa vostra, però. A noi solo dell'UDC, certo. Però che noi dicevamo senza se, senza ma. E dopo se n'è fregato. E dopo se n'è fregato, chiaramente. Per cui, come dire. Vabbè, che diceva? Una? Dalle parti mie. Come si dice? Al nemico che fugge. Fate ponti d'oro, no? Io spero che questa cosa si ritorni a riparlare di UDC, ognuno a casa propria, ognuno a creare le condizioni, ognuno con il suo partito. Vabbè, senta, Cera, devi sapere, Telese, che l'onorevole Cera si ricorda come uno che ha fatto, che voleva istituire la giornata del silenzio in Parlamento, sì, con un disegno di legge. La ricordo bene, sì. Ma che vuol dire la giornata del silenzio? Era per Giovanni Paolo II, vabbè, mi ricordo, eccetera. Era ma la giornata era per il Papa polacco, per ricordare. Ma che lui ci voleva la giornata del silenzio? Ci voleva l'istituzione della giornata del silenzio. Guarda, non farebbe bene a tante persone che ballano a Vannara, una giornata di silenzio assoluto sarebbe stato sicuramente. Ma per noi sarebbe una tragedia, cioè la giornata. Per voi per voi giornalisti, sì. Per noi una tragedia sarebbe. Vabbè, Cera, la ringrazio, a presto. Complimenti a lei, grazie. Ciao. Telese, pubblicità, torniamo subito. Crociare la fa culo, non sei crociare. La zanzara. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco. Eccoci, forse ti sei perso, caro Telese, l'ultima performance in Senato di Razzi, Qual è l'ultima? Beh, senti quella questa cosa. Dei marziani. No, quella dei treni, sentila. Poi ascoltatori, così combattiamo con gli ascoltatori. Ma senti questa qua di Razzi. Razzi sulla rifacimento della linea ferroviaria Roma-Pescara, argomento che gli è molto caro perché ovviamente è pescarese. Il corridoio ferroviario adriatico ammodernamento della linea Pescara-Roma. Premesso che la velocizzazione del corridoio ferroviario adriatico costituisce opera strategica ed impegnativa per il governo italiano, che in questo momento codesto deve essere assicurato un'adeguata modernizzazione della linea ferroviaria Pescara-Roma. L'ammodernamento della ferrovia Pescara-Roma costituisce altresì opera strategica per il turismo e lo sviluppo economico dell'intero Abruzzo, nonché opera oramai ineludibile per la drastica riduzione del fenomeno di codesta nel traffico velochilare a Roma. Beh, siamo al top con Razzi. A me mi sta simpaticissimo Razzi, perché se ne fotte di queste cose qui, non dovrebbe fare questi interventi al Senato, non commette degli errori perché non deve fare un intervento così tecnico, che va a fare, a farsi pigliare per il culo così? Drastica riduzione del fenomeno di codesta nel traffico velochilare a Roma. Però scusa Luca, tu mi devi spiegare perché avrebbe ragione Battiato, scusa, per due inchiestucce a Firenze e in Sicilia su giri di prostituzione che sfiorano anche i politici, adesso ha ragione Battiato quando parlava delle puttane in Parlamento, scusa, me lo devi spiegare questa cosa qua. La grande metafora, l'artista indica una metafora potente. Bisogna capirla la metafora. Ma quale metafora? È come il centro di gravità permanente, ha spiegato gli anni 80 tutti questi. E allora questa volta te, cosa ci avrebbe spiegato questa volta? Dimmi. Le prostitute del palazzo sono una cosa post pasoliniana. Ma che dici? Cioè, ma scusami, ma non ti ha colpito a te questa cosa che in Sicilia, secondo l'ipotesi accusatoria, e non sembra molto contestata, con i fondi dello sviluppo dell'Europa pagavano le prestazioni sessuali? Cioè, sì, a parte che c'è scritto che pagavano, ma poi è stata indicata una persona, Sara Tommasi, che aveva un tariffario, sembra, di 3.000 euro, però poi non è stato consumato nulla, non è stata mai chiamata, sembra, Non aveva fatto la campagna, per cui si immagina, almeno così pensano, si immagina che fosse, come dire, un pagamento, non lo so. Sai che forse dovremmo chiamare Sara Tommasi per farcelo dire? Chiamiamola, dai. Dici? La chiamiamo? Sì, che dici? Subito, subito. Ci abbiamo il tempo. Sì, sì, aspetta, aspetta. Davide da Rimini, intanto. Davide da Rimini, adesso cerco il numero, Davide. Ciao, ciao. Dimmi, dimmi. Io volevo dire che penso che Parenzo abbia fatto una mossa astuta. Insomma, da tempo ho sempre visto con un tono un po' più dimesso, perché ha ottenuto quel che voleva, la poltrona. Ma quale poltrona? Ma di che poltrona sta parlando? Conduce una trasmissione, punto, non ci sono poltrone. Sì, conduce una trasmissione, e per ottenere ha fatto il possibile. Insomma, tanto per cominciare, ha, diciamo, leccato il fondoschiena alla potente lobby gay che c'era Rai. Ma quale, quale lobby gay? Quale lobby gay? Lo sappiamo che... Guardi, io posso anche essere incazzato come una bestia con David, ma certamente non ha leccato il culo a nessuno, e soprattutto tantomeno alla lobby gay. Beh, però anche i toni dimessi che ha ultimamente... Ma quello è dimesso perché è un coglione lui, ma non perché, cioè, no, non perché, no, non perché lecca il culo alla lobby gay. Io penso invece che sia una persona molto intelligente. Perché deve dire così? Secondo me, il mio punto di vista è che è una persona molto intelligente, e chiaramente è un servo di partito, e quindi sa come muoversi. Ma che servo di partito? Astuto, ma non è vero. Molto astuto. Ma lo sai chi è questo signore? Io l'ho riconosciuto adesso dalla voce. Molto astuto. Telese, sai chi è questo signore che che ha chiamato da Rimini? Ma è Davide il Vichingo. Davide, sei tu. Mi ha riconosciuto dalla voce, immagino. No, ti ho riconosciuto dalla voce quando hai iniziato a parlare. Mitico Vichingo, grandissimo, grandissimo. No, volevo fare questo intervento perché, si ricorda, l'anno scorso un po' avevo definito un volpone per il fatto che chiaramente era una mia semplice idea, ecco, nel senso che tutto questo parlare sempre, dare molto spazio, perché è giusto rispettare il mondo gay, lo rispetto anch'io, tantissimi amici gay, però ecco, vedo sempre che c'è questo enorme spazio e poi si ottengono anche dei risultati, quindi ritengo in maniera... Ma non ha leccato il culo a nessuno, guarda, te lo posso assicurare, non ha leccato il culo a nessuno, a nessuno. In questo mondo dove, diciamo, tutto è così... è facilmente reperibile, no? Nel senso che, ad esempio, non so, si parla tanto che del processo di Berlusconi, no? Sfruttamento di Ruby. Io penso che la vera persona che sta sfruttando Ruby sia Ilda Boccassini. E quindi di questo se ne può parlare. Paolo da Milano, ciao Davide, grazie. Paolo. Sì, pronto. Volevo dire sulla coppia Cruciani-Parenzo. Sì. Nella storia dello spettacolo, del cinema, ci sono state grandi coppie, sì. Pianello, Tognazzi, Cochi, Renato, sì, sì. Eccetera, eccetera, Boldi, Teoccoli. Ogni tanto si rompono, poi hanno fortuna tutte e due, chi più chi meno. Sì. Quindi volevo darvi un grosso in bocca al lupo a tutte e due. Ma guardi che qui non si è rotto niente, al momento. Io non riesco a capire quanto sia parte della, diciamo, trasmissione dello show, che a me piace tantissimo e quindi va bene, quanto invece ci sia qualche cosa veramente di... No, ma non c'è nessuno, qui non c'è nessuno show in questo caso, c'è il sottoscritto che è una belva, è incazzato come una belva, punto e basta, non c'è nessuno show, cioè io sono molto naturale su questo, ma è abbastanza, cioè basta che qualcuno me lo chiede e io rispondo, non c'è problema. Senta, un'altra cosa Cruciani volevo chiedere, ma Fini che fine ha fatto? Ma che ne so che fine ha fatto Fini, lo sa Telese che abita a Roma, io abito a Milano, che fine ha fatto Fini, Telese? No, ma io sono più incuriosito da questo fatto, che è successo, perché basta che qualcuno te lo chieda? Perché si è arrabbiato con Parenzo? Ma lasciamo perdere. Gli ascoltatori hanno avvertito questa cosa, perché? Ma scusa, che è successo? Ma scusa, lasciamo perdere, dai, su, perché ma anche tu con la lobby gay, no? Ma che lobby gay? Quale lobby gay? Che c'entra la lobby gay? Dai, su. No, ma che è successo? No, dimmi. Ma è scomparso da un mese e mezzo, pensa solo ai cazzi suoi, dai, su. No, non parliamo di questa roba qua, che mi fa venire tristezza. Un argomento che mi intristisce profondamente. Sono profondamente triste quando parlo di questa cosa. Mi devo sforzare per non sfogarmi. Sennò ma perché? Avevate un accordo? Che succede? Ma no, ma che c'entra? Non c'è questione di accordo. Ma ora lo vedi gli ascoltatori. Ma non c'è un accordo. Quando uno sparisce dalla circolazione mentalmente per un mese e mezzo, moscio. Come faccio? Trasformo il capra di Sgarbi in moscio. Moscio. Uno si incazza poi, no? Dopo un po', Cristian da Milano, l'improvero, la mosceria, sì, la mosceria, la scarsa concentrazione, tutto. Ma non si può mettere in piazza ogni cosa. Si dovrebbe mettere in piazza ogni cosa. Poi mi rimproverano, mi dicono no, tu metti in piazza troppe cose, eccetera, eccetera. No, non si può mettere tutto sempre in piazza. Pure queste cose qua che non interessano a nessuno, o forse interessano qualcuno. I rapporti tra me e David. Paolo, che dice lei? No, sono Cristian, pronto? Sì, no, Paolo, cioè non c'è più Paolo, è scomparso. No, no, no, ci sono. Cruciali. No, quello che dicevo appunto è che siccome dura da tanto tempo è una cosa abbastanza significativa. No, ma può succedere, nella vita ci si può anche separare. Infatti, era quello che stavo dicendo, si può, mi dispiacerebbe perché la trasmissione funziona tantissimo, ma potete fare un'ottima carriera tutte e due. Ma non lo so, poi vediamo. Perché ha ragione Battiato? Luca, io non l'ho ancora capito. Battiato ha detto una puttanata, che ci sono le puttane nelle istituzioni. In questo caso si tratta di inchieste sulle prostitute, anche i politici vanno a prostitute. Allora qual è il problema? Io non capisco tutto questo casino, al di là del fatto che paghino con i soldi pubblici, che è un altro discorso. E questo è il punto determinante. Infatti c'è un verso bellissimo di Innes Auge in cui si profetizzava questo: la crisi della politica, che un tempo non doveva neanche chiedere per ottenere, adesso ha portato questa categoria a avere bisogno di ottenere pagando denaro pubblico. Hai capito? Ma secondo me non sapeva nemmeno quello che diceva. Non sapeva nemmeno quello che diceva. Ma i maestri sono così, sono come dei rabdomanti che colgono profeticamente alcuni elementi e li spiegano a gente come te. Capra! Vabbè. Paolo da Pescara, Paolo. Buonasera dottore, volevo soltanto supplicarla, non fate più ascoltare Razzi. E perché? No, no, ma io farò sempre ascoltare Razzi, sempre. Perché Razzi ci fa perdere la faccia, insomma, ecco, non è che è proprio, cioè non riesce ma ho capito, ma, a dire una frase di senso compiuto, dottore, cioè veramente siamo, insomma, è fuori da ogni logica umana. Cioè, francamente, è veramente fuori ogni logica umana. Cioè, è vergognoso. Era nella lista del Senato, nel PDL in Abruzzo. Dunque, i suoi concittadini hanno visto il nome di Razzi e hanno messo la X sulla lista del PDL. Certo, non c'era solo Razzi, c'era Berlusconi, capolista, quello che è. Però c'era anche Razzi. Se ai suoi concittadini Razzi faceva schifo, non mettevano la X sul simbolo del PDL. Ma schifo, dottore, ma una persona che siede in Parlamento un minimo di cultura dovrebbe averla. Cioè, io penso, insomma, ecco, tutto quanto qua, insomma, questi suoi interventi, quando fate sentire questi suoi discorsi, cioè francamente sono un attimino deprimenti, mi creste veramente deprimenti. Comunque complimenti grandissimi per la trasmissione. Vabbè, grazie Paolo. Allora Luca, dopo la borsa, se mi aspetti un attimo, c'è una senatrice del Partito Democratico che oggi ha proposto una cosa fantastica, devo dire abbastanza isolata nel suo partito, dove sono molto bigotti su questo tema qui. Cioè, ha proposto la legalizzazione della prostituzione, cioè ha detto che le prostitute devono avere la partita IVA, devono avere i controlli. Non si farà mai, però sentiamo. Ma qual è l'obiettivo vero della vostra trasmissione? La Zanzara. Siamo qui Alessandro da Latina, 800 24 00 24, La Zanzara. Alessandro, dica. Allora. Cruciani, buonasera. Dica. Niente, volevo dire una cosa, cioè quegli 8 milioni e mezzo che hanno votato il Movimento 5 Stelle, sì, non l'hanno fatto perché, cioè, solo per un piacere di farlo, l'hanno fatto per cambiare le cose. E allora adesso? Adesso io sento Radio 24 e quello che sento è che state solo a dire stronzate su Grillo e sul coso. In che senso, scusi? In che senso? Io sento che prendete sempre in giro Grillo. Noi non pigliamo in giro nessuno, ognuno ha le sue idee. Io penso che la gran parte delle persone che hanno votato Grillo volevano che questi voti in qualche modo fossero utilizzati. Mi sembra che la strategia fino adesso è sbagliata. Cioè, posso dire una cosa? Ma se da lei viene un delinquente, no? Io voglio fare un esempio, viene un delinquente e gli dice. Ma sentiamo un attimo solo, ministro Idem, che stava parlando oggi, a un certo punto è scoppiato il terremoto. Era in Emilia e dopo non ha voluto rispondere alle domande sull'IMU. Allora Alessandro, che diceva? Allora io le faccio un esempio: se viene un delinquente da lei, un delinquente proprio giudicato, e gli dice facciamo una società insieme, lei che cosa fa? Gliela fa la società insieme? Vabbè, lei sta dicendo che i partiti sono assimilabili ai pregiudicati? Sono tutti delinquenti, dal primo all'ultimo. Vabbè, ma non è così, ancora, su, dai, non è così, non dai. È così. Luciani, ma di che stiamo a parlare, Luciano? Ma di che cosa stiamo parlando? Quelli sono, sono dei delinquenti e ancora la gente li vota. È finita, Luciano, per loro è finita. Sì, ma non si può, il 100% non si può prendere, ha capito che non si può prendere il 100%, Alessandro. L'ambizione di prendere il 100%, ho capito, ma Grillo vuole il 100%, ma non può esistere una cosa del genere. Posso dire una cosa? Posso dire una cosa? Sì, sì. Io sto dicendo solo una cosa, non lo prenderò mai il 100%, perché dietro a quella centaglia lì, c'è un'altra centaglia. Perché quella signora che chiama e parla male di Grillo, la signora Almirante, quanto prende la signora Almirante? Ma che c'entra la signora Almirante? Ma lasci perdere la signora Almirante, ma non è mai stata in Parlamento, su, ma che c'entra la signora Almirante? Grazie Alessandro, grazie. Oh, finalmente una proposta di legge seria, Telese, una proposta di legge seria, finalmente una persona che ha il coraggio di dire che le prostitute vanno legalizzate, la prostituzione va legalizzata con iscrizione alla Camera di Commercio, partita IVA, patentino addirittura, certificato di qualità, cioè una cosa serissima. La senatrice Maria Spilabotte, che nome è strano. Buonasera. Buonasera. Come sta? Spero che non sia ironico quando mi dice che finalmente una legge interessante. No, ma che ironico, quando mai? Noi siamo grandi tifosi, almeno io lo sono. Telese, tu che sei un po' moralista, vuoi la legalizzazione pure tu? Guarda, tu sei un po' conservatore, un po' destrorso, mentre io penso che questa sia una proposta di civiltà. In Germania 5 miliardi di gettito dalla prostituzione. Sì, anche se poi su questo ci sono delle discussioni sul gettito della Germania. Comunque, senatrice, innanzitutto che vuol dire il certificato di qualità? Questo sono curioso, scusi. Allora, intanto io vi ringrazio per l'ospitalità. Vabbè, non ho la fortuna di potervi ascoltare molto spesso. Vabbè, non c'è problema, evitiamo i cosi, evitiamo i preamboli. Benissimo. Allora, per certificato di qualità che cosa si intende? A me tante persone che ho interpellato, perché io ho spiegato che la legge era costruita dal basso e non calata dall'alto come avviene di solito nel nostro Parlamento. Cioè lei che ha consultato le prostitute? Sì, ho consultato, certo, le prostitute, le escort, le transessuali, adesso ascolterò le associazioni che difendono i diritti delle prostitute, associazioni laiche e cattoliche che si occupano dell'assistenza, le questure, certo, farò questo lavoro. No, ma l'ha già fatto? L'ha già fatto questo lavoro? Cioè lei si è una parte la sto facendo. Ma come si fa il certificato di qualità di una... Allora, qualcuno insiste sul fatto che le prostitute debbano fare il test anti-HIV o comunque dimostrare di essere sane. Io penso che questa sia una grande ipocrisia, perché se una prostituta ha, guardi, io voglio dire, ma che senso? Non lo devono fare questo certificato? Lo devono fare per la loro tutela, la loro salute, ma non per esibire, diciamo, questo al cliente, perché il cliente non è tutelato. Guardi, se lei ha rapporti, se una prostituta ha rapporti con due persone il giorno prima di averne con lei, mi scuso se mi rivolgo a lei, però il giorno prima di averne con lei, le fa vedere questo bel certificato e dice che non è positiva all'HIV, secondo lei è tutelato? Non mi sento sicuro. Potrebbe averlo contratto il giorno prima. Quindi... Vabbè, ma basta usare le precauzioni e poi siamo a posto. Oh, ecco, esatto. Io insisto su un altro tipo di vabbè, ma al di là adesso di questa cosa qua. L'educazione sessuale rispetto delle differenze, rispetto l'accettazione delle differenze. Scusi, ma una cosa del genere, però... è obbligatorio l'uso del profilattico. Allora, signora Spilabotte, Telese, chiediamo una cosa molto semplice. Nel Partito Democratico non è che c'è tutto... fino adesso nessuno ha avuto il coraggio di presentare una cosa di questo tipo, perché c'è sempre stata l'idea che dalla prostituzione si può quasi guarire, no? La prostituzione vista come una specie di... non dico di malattia, Giuseppe, ma come un lavoro che non si vuole fare, cui uno è costretto, no? Allora, io le spiego aspetti, senatrice, un attimo, Telese. No, in una parte della sinistra, secondo me un po' vecchia, c'è l'idea che sia una degradazione della donna che non si può riconoscere e quindi va negata, anche se esiste davvero. Infatti, no, senatrice, scusi, lei pensa che invece uno, come io sono convinto, ci sono delle donne che proprio vogliono fare le prostitute? Allora, guardi, io penso che comunque sia sempre avvilente fare le prostitute, la prostituta sia comunque un lavoro avvilente, come fare il minatore, non credo che il minatore sia contento di farlo, lo fa per necessità, come l'asfaltista che lavora sull'autostrada ad agosto con 40 gradi non è contento di farlo, lo fa per necessità. Vabbè, ma lei mi sta facendo il paragone, lei sta facendo il paragone con due mestieri assolutamente nobili, diciamo, cioè l'operaio. No, assolutamente, ma solo per dimostrarle che non è che tutti abbiamo la fortuna di fare il lavoro per il quale... Però è un lavoro come gli altri, però è un lavoro come... È un lavoro come un altro, tra l'altro il mestiere più antico del mondo. E le rispondo alla domanda che mi ha fatto precedentemente. Io le dico che il Parlamento in questa legislatura è stato rinnovato per l'80%. E allora? È stato un rinnovamento generazionale al quale... mi auspico ci sia stato anche un rinnovamento culturale, per cui i problemi... Vediamo. Ma come l'hanno presa nel PD? Come l'hanno presa nel PD sta roba? Guardi, il mio comunicato stampa, la mia... No, ma le donne, le sue colleghe... È stato diffuso, alcune mi hanno dimostrato molta solidarietà, poi io ho controllato tutti i disegni di legge presentati dalle mie colleghe del Partito Democratico nelle legislature... E non ce n'era nessuno. Che non hanno avuto un corso, ma... che regolamentavano, andavano verso la regolamentazione del fenomeno. Comunque lei dice addirittura il patentino, che scriverebbe lei sopra il patentino? Attività lavorativa prostituta, stupendo. Se mi fa spiegare, perché sennò poi magari posso essere fraintesa. No, il patentino allora, mi piace, noi siamo molto ironici anche su alcune cose, siamo a favore totalmente, però il patentino ci piace, vero Telese? Tu che scriveresti sopra il patentino? Il patentino, Luca, che scriveresti? È molto importante il patentino, perché... Beh. Noi amiamo, è come quello del giornalista, no? Ordini, certo, quindi uno ordine delle prostitute. Pelle, ordine delle prostitute e poi anche l'abilitazione, gli esami sostenuti, queste cose qua. Ma sì, ma vanno fatte seriamente queste cose qua, mica si possono fare così tanto per, no? Poi una cosa è la prostituzione, una cosa è lo sfruttamento. Scusi, ma senatrice Spilabotte, ma poteva servire pure a Berlusconi sta cosa qua, se ci fosse stata la prostituzione legalizzata come voleva lei, forse tanti guai non li avrebbe avuti, o no? Fare una grandissima distinzione, perché nel momento in cui noi non regolamentiamo questo fenomeno, facciamo cadere nello stesso calderone la prostituzione volontaria con quella coatta che è... Vabbè, quello è chiaro, quello lo sappiamo. L'ultimo fenomeno che è la tratta delle donne. Ma secondo lei quelle che andavano da Berlusconi, quelle che andavano da Berlusconi, che i PM chiamano prostitute, erano volontarie? Penso di sì, ma io non mi permetto di definire nessuna prostituta se non decidono di farlo personalmente. Per cui dicono che esercitano la professione. No, non lo dicono, loro negano di essere prostitute, però così le hanno chiamate i pubblici ministeri. Ho capito, però io non sono un pubblico ministero. Non è stato elegante. Le carte, quindi sinceramente non lo direi. Riferito alle donne che hanno frequentato Arcore, cioè ovviamente non mi permetterei. Io sono solo per la regolamentazione, per fare in modo che si regoli la prostituzione, quella volontaria, e combattere invece quella che, quella è chiaro. Che fa... Comunque una prostituta può diventare una prostituta può diventare tranquillamente un'imprenditrice, diciamola tutta, è un'imprenditrice come un'altra. Iscriversi alla Camera di Commercio, magari in una categoria di esercizio di altri che categoria la mettere, in che categoria? Arti e mestieri, artigianato. Si troverà la soluzione, avere le idee chiare. Bene. Avere una licenza per esercitare, essere in regola. Quelle che non hanno questo tipo di licenza, immagino non lo possono avere le persone che non hanno il permesso di soggiorno. Ma lei le case chiuse le riaprirebbe, le famose case chiuse? No, le case chiuse sono un'altra cosa aberrante, io la invito. Ma come aberrante? Uguale. A leggere un libro che si intitola Lettere dalle case chiuse. Ma è uguale, le case chiuse è la stessa cosa, c'è un imprenditore. No, non è la stessa cosa. Se io sono una prostituta e decido di, insieme ad altre mie quattro colleghe, di affittare una casa, una cooperativa, esercitare una casa liberamente senza che ci sia lo sfruttamento e l'arricchimento di nessun altro, emettendo fatture e cose varie, lo posso fare direttamente, ma non individuare un luogo dove... Ma è uguale se uno affitta una casa, si mette insieme e fa una cooperativa in cinque, io quello intendo, non è che intendo una come ai vecchi tempi, come le vecchie case chiuse. L'importante è che non ci sia lo sfruttamento. Vabbè, ma quello è evidente. Si può fare, si può fare tutto, l'importante non ci sia lo sfruttamento, l'importante è che si combatta la criminalità organizzata. Vabbè. Io le ricordo che siccome da noi manca da 60 anni una regolamentazione in questo senso. Ognuno fa il cazzo che vuole, certo. No, ci sono 60 cartelli mafiosi, criminali. Ma questa è la cosa fondamentale. Che hanno investito nel nostro paese. Va bene, grazie senatrice, a presto. No, no, devo chiudere il traffico, grazie. La Zanzara. Beh, certo, la Lega si fanno in quattro per cercare di limitare i danni per le esternazioni sulla Chieng, eccetera eccetera, poi arriva Borghezio e attacca la Idem dandole della puttana, Mamma mia. In realtà, sì, qualcuno pensa all'espulsione. Se tu vai a sentire bene l'audio di Klaus Davi in Klaus Condicio, non è proprio così. Lui parla di ce l'hai? Sì, sentiamo. Io dico che in questa situazione, con gli esempi che ci vengono, per esempio l'ipocrisia di questa ministra Idem, io non ce l'ho con la signora Chieng, come non l'ho mai avuta, a dire la verità, ce l'ho veramente invece contro questa ministra. Forse le vere puttane non sono quelle che esercitano la professione, sono quelle piene di ipocrisia, intendo dire politicamente parlando, certo, che dicono una cosa e ne fanno un'altra. Le vere puttane sono quelle che politicamente parlando dicono una cosa e ne fanno un'altra. Insomma, dai, gli ha dato della B, dai. Sì, poi alla fine quando parla Borghezio si mettono insieme due cose, va benissimo, l'abbiamo fatto anche noi altre volte. Però parla di le vere puttane politicamente parlando. Sì, però sta parlando di lei. Sì, no? Le vere, sì, sta parlando. Non ce l'ho con la Chieng, ce l'ho con la Idem, pausa, Variazio. Sì, le è così. Le puttane sono quelle, quindi in grosso modo voleva dire quello. Sì, le vere puttane politicamente parlando, aggiunge, no? Dunque non è che parla le vere puttane, cioè vabbè, anch'io se ti dico il vero stronzo giornalisticamente parlando, ti ho dato lo stronzo, mica ti ho parlato di giornalismo. Sì, no, ma per carità, non mi voglio mettere a questionare su questi passaggi. Cesare da Monza, Cesare, dica. Cesare. Cesare. Leonardo da Firenze, su. Sì, buonasera. Andiamo. Buonasera, dottor Cruciani. No, volevo riallacciarmi alla proposta della senatrice. Credo che sia una proposta assolutamente giusta e congrua. In questa emorragia di sperpero di denaro pubblico, dove lo Stato è sempre alla ricerca e si inventa nuove tasse, credo che sarebbe giustissimo far pagare. Sì, Leonardo, però ripeto, le entrate delle persone che prestano. No, ma io sono d'accordo al 100%, sia per una questione di principio, una questione di sanità, per una questione di incassi per lo Stato. Sulla questione degli incassi e dei soldi, beh, insomma, ultimamente i dati sono piuttosto controversi, ma comunque basterebbe un euro, anche solo un euro di incasso per lo Stato, che già sarebbe meglio dello zero di adesso, e soprattutto dei soldi che vanno alla criminalità, che non si eliminerebbe così, però comunque una bella botta gliela dai. Luca da Brescia. Pronto, salve Cruciani. Vada. Anche io intervengo sulle prostitute, e visto che ha tirato in ballo ancora San Battiato. Le prostitute tirano sempre. Ma tirano, sì, ma Susi, dove diavolo è Susi Trans? Vogliamo provare a chiamarla, mitica Susi? Luca, allora? Allora, dicevo, visto che ha tirato in ballo San Battiato, il quale dice che in Parlamento ci sono troie disposte a tutto, sì, e fu veramente una gravissima offesa quella, ma per le prostitute, non certamente per i parlamentari. Addirittura. Perché le prostitute almeno offrono un servizio e quando esci sei contento, ma i parlamentari pigliano soldi, tra l'altro le prostitute pigliano anche molto meno, almeno quelle che non sono state con l'ex presidente, pigliano molto poco rispetto ai parlamentari e normalmente pigliano soldi per prenderlo dietro, i parlamentari di solito pigliano soldi per mettercelo dietro. Non è male questa cosa, ma abbiamo ripescato dopo tanto tempo Susi. Susi! Pronto? Dove sei, Susi? Buonasera a tutti. Abbassa la radio, abbassa la radio un attimo, maledizione. Sì, ce l'ho bassa. Eccola qua. Allora, come stai? Ma lo conosci il signor Telese, tu? Telese, chi è? Luca Telese, beh, come chi è? Giornalista, come conduttore televisivo, come chi è? Susi è una transessuale che esercita sulla 14, la conosciamo da un sacco di tempo. Questa sera com'è andata, Susi? Beh, veramente proprio adesso sono arrivata nel parcheggio, in questo istante secondo. Questo istante, se abbiamo parlato della legalizzazione delle prostitute, tu vuoi continuare a stare per strada oppure ti farebbe piacere stare in una casa e a pagare le tasse, eccetera? Dimmelo sinceramente. No, assolutamente. Cioè, io che voglio stare. Dove? Per strada? Sulla strada, precisamente nella 14, precisamente al mio parcheggio San Lorenzo, che 13 anni che ci vado. Da 13 anni in casa no. E le tasse le vuoi pagare o no? Le tasse? Sì. E che cosa devo? Non si può pagare le per tasse. Per adesso, perché? Ma le vorresti pagare, dico? No, perché io devo pagare le tasse su quello che faccio, dovrei lasciare uno scontrino. Lo sappiamo, è quello che vogliamo fare, però. Scusa, no, Susi. Ma io che scontrino devo lasciare? Perché il sesso, c'è chi vuole una cosa, chi ne vuole un'altra, chi ci quello mette tempo, chi fa subito. Io come faccio a regolarmi da fargli uno scontrino? Scusa. Capito, Telese? Hai capito l'antico? Quello che lei fa pagare, signora, lei lo deve scontrinare come uno che va dal parrucchiere e fa lo shampoo. Scusi, la cosa minima quanto costa? Ah, da me la cosa minima è 30. La cosa minima è 30, eh? Che cos'è, la cosa minima? Una cosa velocina, dai, un'americanella. Spieghiamo domani, anzi, spieghiamola lunedì l'americanella. Ciao Susi, un abbraccio, ti abbiamo cercato tutto il pomeriggio, maledizione. Ma bruciare è colpa sua. Dove stai, Parenzo? Ti voglio mandare io l'ambulanza. Dimmi dove stai. Parenzo dimostra continuamente di essere diversamente intelligente. Mi ha perso Parenzo. Ma sul torpedone non si menano mai, Parenzo. Cornute che non sono altro. Questi sono dei cornuti. Glielo dico che se lo vedo gli do una bastonata in testa a questo io. Radio 24. La passione si sente. La Zanzara.